Storie italiane. Il tamburino. Molto, molto tempo fa, vicino ad un lago lontano, un tamburino vagava per godersi la notte stellata. Quando arrivò alla riva del lago, trovò alcuni pezzi di lino così belli come non ne aveva mai visto prima. Non vedendo nessuno in giro, prese un pezzo di lino e se lo mise in tasca. Avrebbe funzionato perfettamente da federa per il suo cuscino. Quella notte, mentre dormiva nella sua capanna, sentì bussare. Chi potrebbe essere a quest'ora? Chi sei? E cosa ti porta qui a quest'ora? Sono una principessa e sono sotto l'incantesimo di una strega. La strega mi ha intrappolata in cima alla montagna di vetro. Sono venuta qui per fare un tuffo nel lago, ma senza il pezzo di lino che hai preso non posso tornare indietro. Oh, mi dispiace molto. L'ho raccolto solo perché non ho visto nessuno in giro. Potresti restituirmelo? Certamente, ma sembri essere molto disperata. Posso salvarti in qualche modo? Per salvarmi, dovrei venire in cima alla montagna di vetro. Una volta arrivato lì, gran parte del mio incantesimo verrà spezzato. Dopodiché, potrò salvarmi da sola. Ma sarà impossibile per te raggiungere la montagna. Ah, impossibile solo per coloro che non provano. Dimmi, dov'è la montagna di vetro, principessa? La montagna di vetro è a 1000 miglia oltre la foresta oscura, che è piena di potenti giganti. Devo andare ora, e non posso dirti di più. Il tamburino era un tipo coraggioso, che non temeva nulla. Quindi, si avviò verso la foresta oscura. Quando arrivò lì, batté il suo tamburo così forte che l'intera foresta sembrò tremare a quel suono. I giganti sentirono il rumore. Chi osa turbare la pace della mia foresta? Sono io, il tamburino. Vieni e affrontami a tuo rischio e pericolo. Tu, minuscolo umano, non ci temi? Avrei paura se fossi solo, ma con questo tamburo ho chiamato tutta la mia gente per dire loro che vi ho trovati. E cosa possono fare dei piccoli umani a noi giganti? Possiamo schiacciarne 1000 sotto i nostri piedi. Non ci sottovalutare. Noi umani siamo pensatori. Ci nasconderemo dietro gli alberi nella foresta e così, nel tuo tentativo di schiacciarci, finirai per distruggere la tua foresta. Quindi, quando sarai stanco e la foresta sarà distrutta, ti attaccheremo con il fuoco. Pensi davvero che gli umani possano farcela? Beh, se non potessero, non avrebbero mandato quest'uomo da solo ad avvertirci, giusto? Quindi, cosa facciamo ora? C'è solo una cosa da fare. Posso chiedere alla mia gente di tornare indietro e di lasciarvi in pace. Ma dovrete fare una cosa per me. Faremo qualsiasi cosa tu dica. Risparmiaci dalle fiamme. Molto bene, allora. Dovrete portarmi sulla cima della montagna di vetro. Bene. Possiamo farti arrivare là in un attimo. Cosa? Dì alla tua gente di non venire! Ah, quello! Sicuro! Quindi il tamburino iniziò a battere di nuovo il suo tamburo e i giganti pensarono che stesse chiedendo al suo popolo di tornare indietro. Il gigante mise il tamburino nel suo palmo e lo passò dal palmo di un gigante al palmo del gigante successivo. Ogni mano di ciascun gigante per 1 miglio esatto. Presto, il tamburino fu in cima alla montagna di vetro. Grazie, giganti! Di nulla! Però, chiedi alla tua gente di risparmiarci. Di questo non dovrete più preoccuparvi. noi non vi disturberemo mai più!» I giganti, sollevati, se ne andarono. Quando raggiunse la cima, non vide nessuno. C'era una piccola capanna. Bussò alla porta. E al terzo colpo, una strega aprì la porta. «Come hai raggiunto la cima di questa montagna? È impossibile per chiunque arrivare qui!» «Impossibile è solo per coloro che non provano. Un viaggiatore può trovare cibo e riparo qui.» «Sì, ma per quello dovrai lavorare un po' per me per 2 giorni.» «Farò tutto ciò che mi chiedi.» «Bene, vai in quello stagno che vedi e svuotalo completamente di tutta la sua acqua con questo. Devi farlo prima che la prima stella esca stanotte, sempre che questo non sia impossibile.» «Impossibile è solo per coloro che non provano. Ci deve essere qualcosa di stregato, una ragione magica per questo strano compito, altrimenti la strega mi avrebbe ucciso. Forse c'è un modo per svuotare lo stagno con questo.» Quindi il tamburino andò allo stagno con lo scolapasta e iniziò a rimuovere l'acqua. Ma riusciva a prenderne solo poche gocce alla volta e non c'era modo di riuscire a svuotare lo stagno in tempo. A mezzogiorno era piuttosto stanco. Proprio in quel momento la principessa uscì di casa con un cesto pieno di cibo. Gli parlò mentre mangiava. «Non ti preoccupare, svuoterò lo stagno con la magia. Sdraiati qui e dormi.» La principessa girò l'anello al dito e immediatamente lo stagno si prosciugò. Quando di sera la strega venne a controllare lo stagno, rimase sconcertata. «Come hai fatto? Questo è impossibile!» «Impossibile è solo per coloro che non provano.» «Bene, ho ancora un compito per te. Domani dovrai fare 1000 mazzi di 100 fiori ciascuno da questa foresta prima che la prima stella esca di notte.» Il tamburino andò nella foresta e cercò, ma non trovò un solo fiore. A mezzogiorno era piuttosto stanco. Ancora una volta la principessa venne da lui con un cesto di cibo. Gli parlò mentre mangiava. «Non ti preoccupare, farò i mazzi di fiori con la magia. Sdraiati qui e dormi.» La principessa girò l'anello al dito e immediatamente apparvero 1000 mazzi di 100 fiori ciascuno. Quando di sera la strega venne a controllare, rimase stupita. «Come hai fatto? Questo è impossibile!» «Impossibile è solo per coloro che non provano.» Non appena la strega sentì le sue parole, scomparve. «Sono libera! Mi hai liberata, tamburino!» «Come ho fatto?» «L'incantesimo che la strega mi aveva fatto poteva essere spezzato solo se qualcuno avesse cercato di salvarmi e avesse fatto 3 compiti impossibili. Il primo compito era arrivare qui. Una volta raggiunta la cima della montagna, che la strega pensava sarebbe stato impossibile, ha perso gran parte del suo potere su di me. E poi, quando hai accettato di fare gli altri compiti, non ha potuto impedirmi di usare la magia del mio anello.» «Principessa, so di essere solo un tamburino, ma pensi che potrei... piacerti?» «Sei l'uomo coraggioso che ha rischiato la vita per salvare una sconosciuta. No, non mi piaci, mio tamburino. Ti rispetto. E sì, ti amo anche io.» «Passerai il resto della tua vita con me?» «Sì, ma per questo dobbiamo lasciare questo posto. Entra nella capanna e prendi i tesori della strega.» Quando il tamburino entrò nella capanna, vide che era piena di oro, pietre preziose e gioielli di ogni tipo. Ne riempì dei sacchi. La principessa raccolse 2 cose, un bellissimo anello di smeraldi e una collana di rubini e oro. Quindi partirono. La principessa girò il suo anello e subito lei e il tamburino raggiunsero le porte del suo palazzo. Ma prima che potessero entrare, il tamburino la fermò. «Vorrei visitare i miei genitori e dire loro che sono tornato e sto bene». «Sì, certo. Ma devi promettermi di non baciarli, perché se lo farai non ti ricorderai più di me». «Come posso dimenticarti, mia cara? Ritornerò in pochissimo tempo». Quindi il tamburino andò a trovare i suoi genitori e tutti furono così contenti e gioiosi che il tamburino dimenticò la promessa fatta alla principessa e baciò entrambi i suoi genitori. In un attimo si dimenticò completamente della principessa. Con i tesori che aveva preso costruirono un enorme castello. La figlia di un ricco nobile fu scelta come sua sposa. La principessa stava aspettando alle porte del palazzo, ma quando non vide tornare il tamburino capì cosa fosse successo. Andò a cercarlo e presto sentì parlare del suo matrimonio. Si mescolò alla folla di camerieri che entravano e uscivano dalla villa e ben presto individuò la futura sposa. «Ah, mi scusi, signora! Cielo, fammi vedere quell'anello! È bellissimo! Non ho mai visto niente di più bello in vita mia!» «Sì, grazie!» «Me lo venderesti?» «Oh, no!» «Pagherò quanto vorrai per questo, ma devo averlo! Lo vorrei indossare al mio matrimonio!» «Bene, puoi averlo, ma in cambio devi permettermi di incontrare il tuo fidanzato da sola per alcuni minuti, proprio quando la prima stella esce di notte». La sposa voleva così tanto l'anello che acconsentì, ma di notte mescolò un sonnifero nell'acqua in modo tale che quando la principessa andò ad incontrarlo, il tamburino dormiva profondamente e non la sentì bussare. «Apri la porta, mio tamburino amato! Non ricordi? Uno sguardo al mio anello magico e ricorderai la montagna di vetro, la strega e tutto il resto! Per favore, apri la porta!» La principessa pianse e supplicò per tutta la notte, ma il tamburino rimase profondamente addormentato. Il giorno dopo, lei tornò alla villa. «Scusi, signora!» «Cielo! Fammi vedere quella collana! È bellissima! Non ho mai visto niente di più bello nella mia vita!» «Sì, grazie!» «Me la venderesti?» «Oh, no!» «Pagherò quanto vorrai per questa, ma io devo averla!» «Vorrei indossarla al mio matrimonio!» «Bene, puoi averla, ma in cambio devi permettermi di incontrare il tuo fidanzato da sola per alcuni minuti, proprio quando la prima stella esce di notte!» La sposa voleva così tanto l'anello che acconsentì, ma di notte mescolò un sonnifero nell'acqua, così che non avrebbe sentito la principessa bussare alla sua porta. Ma questa volta i genitori del tamburino, che avevano sentito le grida della principessa la notte precedente, gli avevano raccontato tutto. Il tamburino capì che se non si era svegliato, doveva essere per qualcosa nella sua acqua. Quindi non ne beve nemmeno un po' e si sedette ad aspettare la principessa. Presto sentì bussare. «Apri la porta, mio tamburino amato! Non ricordi? Uno sguardo al mio anello magico e ricorderai la montagna di vetro, la strega e tutto il resto. Per favore, apri la porta!» Il tamburino aprì la porta. La principessa gli mostrò l'anello magico e in un attimo si ricordò tutto. «Mia amata principessa, mi dispiace tanto. Come ho potuto dimenticare? Vieni con me!» Il tamburino portò la principessa dai suoi genitori e disse loro tutto. «Madre, padre, lei è la mia amata. Non posso sposare nessun altro. Bene, anche perché io non posso sposare uno sciocco tamburino, ma non restituirò l'anello e la collana. Puoi tenerli per sempre. Ho trovato il mio vero tesoro. Quindi il tamburino e la principessa si sposarono con una grande festa e vissero felici e contenti.